Oggi a Bologna, ma anche in altre città d'Italia, presentiamo delle petizioni rivolte agli enti locali per continuare la battaglia sul salario minimo e per l'introduzione del reato di omicidio sul lavoro. In particolare al comune di Bologna chiediamo che si avvii un processo di reinternalizzazione dei servizi che sono stati esternalizzati, perché l'esternalizzazione è stato il grimaldello con cui si è arrivati a pagare i dipendenti pubblici anche sotto i 5 euro all'ora, e noi chiediamo appunto un processo di reinternalizzazione per poter arrivare al minimo di dignità che noi consideriamo sia il salario minimo a 10 euro all'ora. Chiediamo in questa petizione anche che nel periodo di interregno tra la situazione attuale e la reinternalizzazione si arrivi a discutere una serie di clausole sociali per gli appalti in cui appunto si setti il salario minimo e si indichi chiaramente quale deve essere il CCNL da applicare ai lavoratori in appalto, perché non è possibile che si utilizzi quel vero e proprio contratto truffa che è il CCNL multiservizi, che pure però purtroppo è stato siglato anche dai sindacati concertativi. E invece per quanto riguarda la proposta di introdurre nell'ordinamento italiano il reato di omicidio sul lavoro? Si tratta ovviamente di una, nella nostra petizione chiediamo una presa di parola da parte del comune di Bologna. Appunto, si tratta di una proposta storica che ormai è presente da anni e che è evidenziata con sempre maggiore urgenza dopo i casi come quello di Firenze con la strage al cantiere dell'S Lunga e il caso che abbiamo avuto nel nostro Appennino con la strage alla diga di Suviana, dunque con la strage alla diga dell'Enel, ed è per questo che siamo appunto a fare questa conferenza stampa davanti a una delle sedi di Enel. Potere al Popolo ha dichiarato che appoggerà la candidatura alle europee di Ilaria Salis con Alleanza Verdi Sinistra, mettendo da parte diciamo tutte le differenze che ci sono, le differenze politiche tra i partiti. Noi abbiamo comunicato la nostra scelta di votare Ilaria Salis a queste elezioni europee. Si tratta per noi di una battaglia campale, perché pensiamo che il processo Ilaria Salis sia un processo politico a una militante antifascista. Infatti abbiamo preso questa decisione, lo diciamo molto chiaramente, in totale indipendenza, senza nessun tipo di consultazione o di accordo con la dirigenza dell'Alleanza Verdi Sinistra, su cui il nostro giudizio politico rimane invariato. Per noi si tratta appunto di una battaglia politica per la libertà di Ilaria Salis.